La distruzione di Creta. La fine violenta di Creta è particolarmente inquietante e istruttiva, poiché era un'isola a sud del continente europeo. Il mare, maternamente protettivo, per qualche tempo tenne lontane da Creta le orde guerriere, ma alla fine giunse anche qui e cadde l'ultima civiltà basata su di un modello di organizzazione sociale mutuale, anziché dominatore. La fine cominciò come sul continente. Durante il periodo miceneo, controllato dagli indoeuropei achei, l'arte cretese divenne meno libera e spontanea, e dalle testimonianze archeologiche dell'isola risulta evidente che ora la morte desta una maggiore preoccupazione, viene messa in particolare risalto. Prima di finire sotto l'influenza degli achei, era tipico dei cretesi non tenere in gran conto la morte e i riti funebri, nota la hoax. L'atteggiamento dell'Itache era diametralmente opposto. Ora si trovano tracce di un gran dispendio di lavoro e di ricchezza per provvedere ai defunti reali e nobili. E dato estremamente significativo, in parte a causa dell'influenza achea e in parte a causa della minaccia crescente di un'altra ondata di invasioni dal continente europeo, ci sono chiari segni di un aumento dello spirito guerriero. La questione di quando e come iniziò e terminò il periodo miceneo a Creta è ancora oggetto di grandi controversie. Una delle teorie è che la conquista achea sia della stessa Creta che di quelli che sembra fossero insediamenti minoici sulla terraferma greca, avvenne dopo una serie di terremoti e maremoti che indebolirono a tal punto la civiltà minoica che essa non poté resistere più a lungo ai barbari che premevano da nord. Il problema è che la data in cui di solito si calcola siano avvenuti questi disastri è quella del 1450 a.C. e in quel periodo non ci sono tracce di un'invasione armata di Creta. Comunque sia, che fosse realmente a causa di una conquista in seguito ai terremoti, di un colpo di Stato determinato da pressioni militari o dei matrimoni di capi achei con le regine di Creta, quel che è certo è che negli ultimi secoli della civiltà cretese l'isola finì sotto il dominio dei re achei di lingua greca. E sebbene questi militari abbiano adottato molti dei più civili costumi minoici e si portarono con sé una organizzazione sociale e ideologica orientata più verso la morte che verso la vita. La nostra conoscenza del periodo miceneo deriva in parte dalle cosiddette tavolette in lineare B, ora decifrate, rinvenute sia a Creta che sulla terraferma greca. In quelle trovate a Cnosso e a Pilo, un insediamento miceneo sulla punta meridionale della Grecia, vengono elencati i nomi di divinità. Con profonda soddisfazione di quelli che hanno a lungo sostenuto che esisteva una continuità tra Creta e la Grecia classica, le tavolette rivelano che le divinità del successivo Pantheon dell'Olimpo, Zeus, Era, Atena, Artemide, Hermes, eccetera, venivano già adorate, anche se in forme e contesti differenti, secoli prima che Esiodo e Omero ritornassero a occuparsi di loro. Insieme alle testimonianze archeologiche, queste tavolette rivelano anche, come dice la hoax, un connubio equilibrato tra divinità cretesi e achee. Ma questo connubio miceneo di cultura minoica e achea era destinato ad avere vita breve. Dalle tavolette di Pilo, molte delle quali erano, secondo la hoax, redatte durante gli ultimi giorni di pace, parte uno sforzo vano per evitare la catastrofe. Sappiamo che il Vanax, o re miceneo, era stato preavvisato dell'attacco di Pilo. L'emergenza fu fronteggiata senza panico, scrive la hoax. Gli scribi rimasero sui loro banchi, annotando pazientemente tutti i preparativi, si diedero disposizione ai rematori per allestire una flotta di difesa, furono inviati muratori, presumibilmente per iniziare a costruire fortificazioni lungo la linea costiera sguarnita. Per equipaggiare i soldati si raccolse quasi una tonnellata di bronzo e si radunarono circa 200 fabbri. Fu requisito persino il bronzo che apparteneva ai santuari della dea, come dice la hoax, in una commovente testimonianza della crisi del passaggio dalla pace alla guerra. Ma fu tutto inutile. A Pilo nulla indica che si riuscirono a erigere le mura tanto necessarie, scrive la hoax. Dalle tavolette che registrano i tentativi di salvare il regno si deve passare all'edificio della sala reale per scoprire che si furono vani. I guerrieri barbari irruppero Dovettero rimanere stupefatti dalle sale dipinte e dai tesori che esse contenevano. Finito il saccheggio, non si curarono dell'edificio con le sue decorazioni straniere e per nulla guerresche. Gli diedero fuoco ed esso divampò furiosamente. Il calore fu tale che alcuni dei vassoi in terracotta nelle dispense si sciolsero in grumi vetrificati mentre la pietra si calcificò. Nei magazzini e nell'ufficio delle imposte vicino all'ingresso, le tavolette abbandonate a causa del calore si solidificarono a un punto tale che si sarebbero conservate in eterno. E così, nell'entroterra greco come nelle isole a Creta, vennero distrutte una dopo l'altra le conquiste di questa civiltà che raggiunse un primo apice dell'evoluzione culturale. Probabilmente la storia si ripeté ovunque quando Micene, Tirinto e tutte le altre roccaforti reali, tranne Atene, vennero travolte dalla marea barbarica. Scrive la Hawkes, i Dori a poco conquistarono tutto il Peloponneso tranne l'Arcadia e proseguirono occupando Creta, Rodi e le isole circostanti. La più venerabile tra tutte le residenze reali, Cnosso, deve essere stata tra le ultime a cadere. Entro l'undicesimo secolo avanti Cristo fu tutto finito. Dopo essersi ritirate sulle montagne, da dove per qualche tempo condussero azioni di guerriglia contro gli insediamenti dorici, le ultime sacche di resistenza cretese crollarono. Insieme a masse di emigranti, lo spirito che un tempo aveva reso Creta, secondo le parole di Omero, una terra ricca e amena, abbandonò l'isola che per tanto tempo era stata la sua dimora. Con il tempo si sarebbe perso anche il ricordo dell'esistenza di donne e uomini sicuri di sé e della pace, della creatività e dei poteri della dea che sostengono la vita. Un mondo che si disintegra. Si può dire che la caduta di Creta circa 3.000 anni fa segni la fine di un'era. È una fine che, come abbiamo visto, iniziò millenni prima. A cominciare dall'Europa, pressappoco tra il 4300 e il 4200, il mondo antico fu sconvolto da ondate successive di invasioni barbariche. Dopo il periodo iniziale di distruzione e caos, gradualmente emersero le società che vengono celebrate nei nostri libri di testo dei licei e delle università come capostipiti della civiltà occidentale, ma in questo inizio fulgido e grandioso si celava l'incrinatura che si sarebbe allargata nella più pericolosa voragine del nostro tempo. Dopo millenni di progresso della nostra evoluzione tecnologica, sociale e culturale, stava verificandosi una spaccatura funesta, come le profonde fratture lasciate dai violenti sommovimenti della Terra in quel periodo, il divario tra la nostra evoluzione sociale e tecnologica e quella culturale si sarebbe esteso costantemente. Si riavviò il movimento tecnologico e sociale verso una maggiore complessità strutturale e funzionale, ma le possibilità di sviluppo culturale erano ormai destinate a esaurirsi, rigidamente ingabbiate in una società di tipo dominatore. La società stava ormai diventando dappertutto a dominio maschile, gerarchica, guerriera. In Anatolia, dove la gente di Çatalhöyük aveva vissuto in pace per migliaia di anni, subentrarono gli Ittiti, un popolo indoeuropeo menzionato nella Bibbia, e nonostante i loro resti archeologici mostrino che la dea era ancora venerata, ella veniva sempre più relegata alla condizione di moglie e madre di nuovi dei maschili della guerra e del tuono. La situazione era simile in Europa, Mesopotamia e a Canaan. Non solo la dea non aveva più la supremazia, ella veniva addirittura trasformata in una patrona della guerra. Alla gente che viveva in quest'epoca terrificante sarà davvero sembrato che il cielo stesso, una volta considerato dimora di una dea generosa, fosse caduto nelle mani di forze soprannaturali disumane, alleate ai loro brutali rappresentanti sulla terra. Non solo dappertutto stavano diventando normali il dominio dispotico, sancito divinamente, e la bellicosità. Ci sono anche diverse prove che il periodo dal 1500 al 1100 avanti Cristo fu contraddistinto da un intenso caos fisico oltre che culturale. Fu durante questo periodo che una serie di violente eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti devastò il mondo mediterraneo. L'ambiente fisico venne sconvolto e rimodellato così profondamente da giustificare la leggenda di Atlantide, un intero continente che si inabissa nel corso di un disastro naturale inconcepibilmente esteso e devastante. A questi terrori naturali si aggiunsero quelli causati dall'uomo. Dal nord, i Dori si stavano spingendo sempre più nel cuore dell'Europa. Alla fine, la Grecia e Creta caddero sotto il furibondo attacco delle loro armi di ferro. In Anatolia, il bellicoso impero ittita crollò sotto la pressione dei nuovi invasori. Questo movimento a sua volta spinse gli ittiti verso sud, in Siria. In questo periodo i popoli scacciati dalle loro sedi, tra cui i filistei citati nei racconti biblici, invasero dalla terra e dal mare i territori del Levante. Più a sud, la Siria era divenuta in poco tempo una potenza mondiale e comprendeva la Frigia, la Siria, la Fenicia. E a est, l'Anatolia e i Monti Zagros. Ancora oggi ci si può rendere conto del loro grado di barbarie nei bassorilievi che commemorano le prodezze eroiche, tra virgolette, di un tardo re assiro, Tiglath-Pileser, e si raffigurano quelli che si direbbero abitanti di intere città infilzati vivi su pali che li trapassano dall'inguine alle spalle. Ci furono ripercussioni anche in una regione meridionale, come l'Egitto, quando gli invasori, chiamati nei geroglifi il popolo venuto dal mare, che molti studiosi ritengono possano essere esuli del Mediterraneo, cercarono di conquistare il delta del Nilo agli inizi dell'undicesimo secolo avanti Cristo. Furono sconfitti da Ramses III, ma possiamo vederli ancora oggi raffigurati nei dipinti murali del suo tempio funerario a Tebe, dove sciamano accanto a noi su navi, carrozze a piedi, con famiglie e carri tirati da buoi. A Canaan, le tribù ebree, ormai unificate sotto il regno dei guerrieri sacerdoti leviti, iniziarono una serie di guerre di conquista, secondo gli studiosi, di tre ondate migratorie. Come possiamo ancora leggere nella Bibbia, nonostante le promesse di vittoria del loro Dio, della guerra, Geova, ci vollero centinaia di anni per piegare la resistenza cananita, il che nella Bibbia viene variamente spiegato come un decreto di Dio per impratichire il suo popolo nella guerra, per metterlo alla prova e punirlo, o per evitare la desolazione di vaste aree coltivate fino a che il numero degli invasori fosse sufficientemente cresciuto. E sempre nella Bibbia possiamo leggere, per esempio, in Deuteronomio 3:3-6, che la pratica di questi invasori ispirati da Dio era di distruggere totalmente uomini, donne e bambini di ogni città. In tutto il mondo antico, i popoli lottavano tra di loro, proprio come gli uomini si misuravano con le donne e i propri simili. Masse di esuli vagabondavano in lungo e in largo per questo mondo in disgregazione, abbandonando la loro patria e cercando disperatamente un rifugio, un luogo sicuro dove andare. Ma nel loro mondo nuovo non era rimasto nulla di simile. Era ormai un mondo su cui regnavano dei e uomini di guerra, dopo che la dea e la metà femminile dell'umanità erano state private con la forza di ogni potere. Era un mondo in cui da lì in poi avrebbe prevalso la spada e non il calice, in cui pace e armonia si sarebbero potute trovare solamente nei miti e nelle leggende di un passato per molto tempo perduto. 5. Ricordi di un'età perduta, l'eredità della dea. La caduta dell'impero romano, il Medioevo, la peste, la prima e la seconda guerra mondiale, qualsiasi periodo di caos apparente che conosciamo non è nulla a confronto di quanto avvenne in un'epoca di cui finora si sapeva ben poco. Il bivio evolutivo della nostra preistoria, quando la società umana subì una violenta trasformazione. Oggi, migliaia di anni dopo, mentre ci avviciniamo alla possibilità di una seconda trasformazione, questa volta da una società dominatore ad una versione più evoluta di società mutuale, dobbiamo capire quanto più possibile di questo periodo sorprendente del nostro passato perduto. Infatti, in questo secondo bivio evolutivo, quando ormai possediamo tecnologie di distruzione totale che un tempo venivano attribuite soltanto a Dio, potrebbe essere addirittura in gioco la sopravvivenza stessa della nostra specie. Tuttavia, Nonostante l'autorevolezza delle nuove ricerche e della nuova archeologia, nonostante il contributo della sociologia, questa mole davvero ingente di nuove conoscenze su millenni di storia umana contraddice a tal punto tutto quanto ci è stato insegnato che sulle nostre menti essa si imprime come un messaggio scritto sulla sabbia. La nuova conoscenza può resistere per un giorno, forse per una settimana, ma implacabilmente la forza di un insegnamento di secoli lavora per scalzarla, finché quel che rimane è soltanto la fugace impressione di un'epoca di grande eccitazione e speranza. Soltanto con l'ausilio di altre fonti più o meno consuete possiamo sperare di trattenere questa conoscenza abbastanza a lungo per farla nostra. Evoluzione e trasformazione. Le nostre possibilità di organizzazione sociale possono fondarsi o su di una gerarchizzazione o su di una unione delle due metà dell'umanità, quella maschile e quella femminile. Ciascuno dei due modelli che ne derivano ha un tipo specifico di evoluzione sociale e tecnologica. Di conseguenza, l'indirizzo della nostra evoluzione culturale, in particolare e soprattutto se essa sarà pacifica o bellicosa, dipende da quale di questi due possibili modelli guiderà l'evoluzione. Per esempio, quando a guidare è la cultura del paradigma mutuale, si dava importanza alle tecnologie volte a scopi pacifici, ma con il sorgere del paradigma dominatore ci fu un cambiamento diffuso verso uno sviluppo delle tecnologie di distruzione e dominio, sviluppatosi costantemente nel corso dei secoli, fino alla nostra epoca in cui si rischia l'estinzione. Siccome non siamo abituate a considerare la storia nei termini di un paradigma mutuale o dominatore della società che condiziona i nostri passato, presente e futuro, per noi è difficile comprendere il profondo effetto che questi due modelli hanno avuto sulla nostra evoluzione culturale. Per questo è così importante un'altra fonte che conferma il mutamento avvenuto circa 5.000 anni fa del nostro indirizzo culturale. A differenza della teoria del caos, questa seconda fonte non è affatto nuova. In effetti è una cosa che conosciamo già, è da lungo tempo radicata nelle nostre menti. È il magazzino della mitologia, che sembra in grado di svelare la realtà di un passato antico e migliore. La stirpe dell'oro e la leggenda di Atlantide. L'antico poeta Esiodo, che scriveva verso la fine del periodo che gli storici occidentali chiamano i secoli bui della Grecia, ossia i 300 o 400 anni che seguono le invasioni doriche, ci racconta che un tempo esisteva una stirpe dell'oro, possedevano ogni bene, scrive Esiodo. La terra feconda profondeva spontaneamente i suoi frutti in sconfinata profusione, in serena tranquillità custodivano i loro terreni pieni d'abbondanza, ricchi di armenti e cari agli dèi. Ma dopo questa razza, che Esiodo definisce puri spiriti e difensori dal male, arrivò una inferiore stirpe dell'argento, che a sua volta venne sostituita da una stirpe del bronzo, per nulla simile a quella dell'argento, spaventosa e potente, nata da tronchi di frassino. Esiodo prosegue spiegando che questo popolo, che ovviamente noi ora identifichiamo con gli Achei dell'età del bronzo, portò con sé la guerra. Loro massima cura erano le deplorate ed empie attività di Ares o Marte. A differenza dei due precedenti popoli, essi non erano agricoltori pacifici, non si nutrivano di grano, avevano cuori di pietra, duri ed indomiti. Commentando la terza stirpe di uomini di Esiodo, lo storico Robinson scrive: «Sappiamo chi erano questi uomini. Giunsero dal nord nel 2000 a.C. circa, portando armi di bronzo. Invasero l'entroterra, costruirono le grandi fortezze micenee e lasciarono i documenti in lineare B, oggi identificati come una forma arcaica di greco. Possiamo tracciare l'estensione del loro dominio a sud fino a Creta e a est fino alle coste dell'Asia Minore, dove saccheggiarono la città di Troia verso l'inizio del XII secolo a.C. Ma per Esiodo i discendenti micenei degli Achei e i popoli da loro sottomessi erano una quarta stirpe a parte. Essa era più giusta e nobile della precedente, scrive Esiodo. Come Omero egli idealizza questo popolo, che aveva perso un po' della sua rozzezza, adottando molti dei costumi più civili degli antichi europei. Ma all'orizzonte storico dell'Europa si profilava una quinta stirpe di uomini. Era il popolo che all'epoca di Esiodo regnava ancora sulla Grecia e da cui lui stesso discendeva. Non avessi mai avuto nulla a che fare con questa quinta stirpe d'uomini, scriveva lui. Fossi morto prima o nato dopo, poiché ora l'uomo saccheggia le città altrui. Il diritto dipenderà dalla forza e la pietà cesserà di esistere. Questa quinta stirpe era quella dei Dori, che con le loro armi di ferro distrussero le roccaforti micenee e si presero la terra. Gli studiosi generalmente riconoscono la storicità delle stirpi del bronzo e del ferro di Esiodo, che corrispondono agli invasori indoeuropei Achei e Dori. Ma la descrizione che fa Esiodo di un'età dell'oro di agricoltori pacifici che non adoravano ancora Ares, il dio della guerra, è sempre stata considerata poco più che una fantasia. Per un lungo periodo la stessa sorte toccò al mito greco, probabilmente più conosciuto, su di un'epoca remota e migliore, la leggenda di Atlantide, ove, secondo Platone, un tempo fiorì una grande e nobile civiltà che venne inghiottita dal mare. Secondo Platone, la civiltà scomparsa di Atlantide era sorta nell'Oceano Atlantico. Probabilmente il filosofo si basava su informatori egiziani di Solone, i quali sostenevano che Atlantide si trovava nel lontano Occidente e la facevano inoltre risalire a un'epoca molto posteriore. Tuttavia, alcuni elementi dell'Atlantide di Platone sono uno schizzo sorprendentemente accurato dell'impero minoico nel XVI secolo avanti Cristo. La leggenda dell'inabissamento di Atlantide di cui parla Platone si può riferire alla storia di Creta minoica e alla sua improvvisa distruzione. Infatti, secondo Platone, Atlantide viene distrutta da violenti terremoti e inondazioni, proprio come oggi gli studiosi pensano sia successo alla civiltà minoica, che in questo modo ricevette il colpo di grazia che permise agli Achei di conquistare Creta e gli insediamenti minoici in Grecia. Questa teoria venne avanzata per la prima volta nel 1939 dal direttore del servizio archeologico greco. In tempi più recenti essa è stata avvalorata dalla prova geologica di una serie di eruzioni vulcaniche avvenute nel Mediterraneo nel 1450 a.C., talmente violente da causare il franamento in mare di una parte dell'isola di Tera, che ora è una sottile striscia di terra chiamata Santorini. Queste eruzioni causarono anche enormi terremoti e maremoti. L'esistenza e la gravità di questi disastri naturali, che sembra siano all'origine dei ricordi popolari del continente sommerso, che Platone chiamò Atlantide, è anche confermata dagli scavi archeologici a Tera e a Creta. Su quest'ultima ci sono tracce di un danno provocato da un violento terremoto e segni di una massiccia distruzione costiera causata da maremoti verificatisi nello stesso periodo. Sembra che i maremoti fossero il vero toro dal mare inviato per affliggere i sovrani di Cnosso. E sembra anche che la storia di Atlantide sia effettivamente il ricordo popolare confuso non di un continente atlantico perduto, ma della civiltà minoica di Creta. Il giardino dell'Eden e le tavolette di Sumer. Un'epoca remota in cui gli esseri umani vivevano in maggiore armonia è un tema ricorrente anche nelle leggende della Mesopotamia. In esse si trovano frequenti allusioni a un periodo di pace e abbondanza, prima di un grande diluvio in cui uomini e donne vivevano in un giardino idillico. Sono i racconti da cui i biblisti ritengono derivi in parte il mito del paradiso terrestre descritto nell'Antico Testamento. Vista alla luce delle testimonianze archeologiche che abbiamo preso in esame, la storia del paradiso terrestre si basa chiaramente su ricordi popolari. Il giardino dell'Eden è una descrizione allegorica del Neolitico, di quando uomo e donna coltivarono il suolo per la prima volta, creando così il primo giardino. La storia di Caino e Abele riflette in parte lo scontro reale tra un popolo dedito alla pastorizia, simboleggiato dall'offerta di Abele della sua pecora uccisa, e uno dedito all'agricoltura, simboleggiato dall'offerta di Caino dei frutti della terra, rifiutati dal dio dei pastori Geova. Analogamente, i miti del giardino dell'Eden e della caduta dal paradiso attingono da avvenimenti storici reali. Come vedremo più in dettaglio nei prossimi capitoli, queste storie riflettono il catastrofico cambiamento culturale che abbiamo preso in esame. L'imposizione del dominio maschile e il conseguente passaggio da pace e collaborazione a dominazione e conflitto. Nelle leggende della Mesopotamia si trovano anche frequenti riferimenti a una dea, divinità suprema, la regina del cielo, un appellativo che si trova in seguito anche nell'Antico Testamento. Seppure in un contesto di profeti che inveiscono contro il risorgere di antichi credi religiosi. In effetti, le prime iscrizioni mesopotamiche abbondano di riferimenti alla dea. Una preghiera sumera esalta la gloriosa regina Nana, un nome della dea, definendola la regina possente, la creatrice. Un'altra tavoletta descrive la dea Nammu come madre che fece nascere il cielo e la terra. Sia nelle leggende sumere che in quelle babilonesi successive esistono racconti di come la dea creò uomini e donne simultaneamente in coppie. Storie che in una società ormai dominata dal maschio sembravano riportare indietro in un'epoca in cui le donne non erano considerate inferiori all'uomo. Da altre tavolette si può dedurre che in questa regione, per tanto tempo considerata la culla della civiltà, in un'epoca precedente, la successione era matrilineare e le donne non erano ancora sottomesse al maschio. Per esempio, ancora nel 2000 a.C., in un documento legale di Elam, una città-stato poco più a est di Sumer, si legge che una donna sposata, rifiutando di fare testamento a favore del marito, lasciò il suo intero patrimonio alla figlia. Sempre qui si scopre che solo in periodi successivi la dea di Elam fu conosciuta come grande moglie e venne relegata a una posizione secondaria rispetto a quella del marito Humbam. Persino nella successiva Babilonia, già rigidamente a dominio maschile, ci sono prove documentali che alcune donne continuavano a conservare e ad amministrare il proprio patrimonio, soprattutto le sacerdotesse che si dedicavano intensamente anche al commercio. Inoltre, come scrive il professor Sachs, da principio la dea occupava una posizione importante nella religione sumera. In seguito, ella scomparve quasi del tutto, se non con l'eccezione di Ishtar, come consorte di alcuni dei. Ciò avvalora la conclusione che nelle prime città-stato sumere la condizione delle donne era certamente più elevata di quanto lo sarebbe stata in seguito. Tombe come quella della regina Shub-Ad della prima dinastia di Ur indicano che nei territori della Mezzaluna Fertile vi fu un'epoca precedente a quella in cui il dominio dell'uomo e la supremazia di divinità maschili terrificanti e armate divennero la norma. Qui, infatti, anche se gli archeologi sostengono che la tomba vicina, che contiene uno scheletro maschile, era quella del re, è scolpito solo il nome della regina e il suo sepolcro è quello più ricco e sfarzoso. Analogamente, sebbene le storie sumere parlino dei regni di Lugalanda e Urukagina e citino le loro mogli Baranamtarra e Shag-Shag solo di sfuggita, dando un'occhiata ai documenti ufficiali si scopre che in realtà questi erano intestati con i nomi delle due regine. Ciò fa dubitare del fatto che queste donne fossero semplici consorti sotto la potestà e il dominio dell'uomo. È un dubbio che sorge anche se studiamo accuratamente il testo delle cosiddette riforme sumere di Urukagina che risalgono circa al 2300 a.C. In esse leggiamo come da lì innanzi gli alberi da frutto e il cibo coltivato nelle terre del Tempio avrebbero dovuto essere usati per i bisognosi, anziché, come era diventata consuetudine, soltanto per i sacerdoti. Una pratica che riporta alle abitudini di epoche precedenti, ma non solo queste riforme ebbero luogo in un periodo in cui le regine esercitavano ancora, o nuovamente, il potere, come fa notare la storica dell'arte Merlin Stone. Ciò indica anche che le prime società di Sumer erano meno gerarchiche, con un orientamento più comunitario. Inoltre, il testo ci rivela che le leggi e le consuetudini più umane, come l'obbligo da parte della comunità di aiutare i più bisognosi, probabilmente risalgono all'epoca delle società mutuali e che da questo punto di vista le riforme di Urukagina non facevano che riaffermare i precetti morali ed etici di quel precedente periodo. Come fa notare la Stone, questa conclusione viene confermata dalla parola usata per definire le suddette riforme. Esse vengono chiamate amarghi, parola che in sumero ha il doppio significato di libertà e di ritorno alla madre. Ciò evoca ulteriormente il ricordo di un periodo precedente e meno oppressivo, in cui le donne, come capiclan o regine, esercitavano ancora il potere come responsabilità e non come mezzo di controllo autocratico.